Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Filippo Marazzi, l'imperatore e la ceramica, di Stefano Totoro. Senza voler fare dei paragoni improponibili, però Alessandro Magno ha potuto fare quello che ha fatto soprattutto a 30 anni o meno di 30 anni, ma soprattutto perché aveva un esercito che lo seguiva e lo seguiva ciecamente fino alla morte. Ecco, io credo di avere un esercito di questo tipo, la mia storia lo prova, è evidente che la leadership bisogna conquistarsela sul terreno, combattendo direttamente con i propri collaboratori. Si definisce un leader con quello che lui stesso chiama paragone improponibile, si accosta alla figura di Alessandro Magno e la prova di tutto sarebbe la sua storia imprenditoriale. Solo scavando nella vita di Filippo Marazzi, presidente dell'omonimo gruppo leader nella produzione di ceramiche, si può risalire al perché della sua consapevolezza. Tutt'altro che superbia. Classe 1949, nato a Sassuolo, la sua vita in azienda inizia molto presto. Io sono entrato, che avevo 23 anni, a lavorare con mio padre. Mio padre morì nel 78 in un incidente stradale, improvvisamente, e io mi sono seduto alla sua scrivania anche con una certa grossa emozione, direi. Ricordo come fosse ieri quando ho aperto il cassetto, aveva come scrivania un frattino del 700, del 600, adesso mi ricordo, perché era appassionato di mobili antichi, e a questo frattino gli era stato applicato un cassetto, e io in quel cassetto non avevo mai guardato, per l'amor di Dio, e con una certa commozione, devo dire, anche perché ho appena perso mio padre, insomma, ho aperto questo cassetto. Ecco, quindi è stata una grossa emozione. Ingresso a 23 anni con un curriculum che rispecchiava la sua età, diploma di liceo classico e 20 esami sostenuti all'Università Bocconi di Milano. Quelli che ricorda di più le sfide vinte a quell'età erano gli esami di matematica e statistica passati con il massimo dei voti, impresa che per un ex studente del liceo classico non era poi così semplice. Ma il traguardo della laurea Filippo Marazzi non riesce a raggiungerlo. Il padre aveva bisogno di lui in azienda e lui, attuale presidente del gruppo, ha accettato la sfida proposta dalla famiglia. Una fortuna dunque essere figlio d'arte, ma i problemi, le sfide nell'attività lavorativa non tardano ad arrivare. Mio padre aveva bisogno di un direttore generale, perché il vecchio direttore generale non era più all'altezza della situazione. Per la verità non lo era mai stato all'altezza della situazione, però aveva proprio in quel periodo dimostrato i suoi grandissimi limiti, e quindi mi chiamò giù a lavorare con lui. Io ci andai molto volentieri, anche perché così, insomma, cominciavo anzitempo una attività manageriale che mi interessava molto, e con il desiderio poi di continuare. Mi pare che ci fossero ancora 6-7 esami da fare, e con il desiderio di continuare a fare questi esami, e poi dopo le cose ovviamente mi hanno preso talmente che non ho poi potuto poi continuare. L'esperienza sul campo era una cosa che aveva molto più valore, e era già un'azienda managerializzata in parte. Ho dovuto contrastare tentativi di presa del potere da parte di alcuni manager e considerarmi semplicemente un presidente così pro forma, e questo, io ho studiato la situazione per 6 mesi, poi dopo 6 mesi ho preso la decisione e sono usciti dall'azienda. Questo ha aggravato però ulteriormente il mio stato di stress, perché poi questa gente la dovevo rimpiazzare, e ho puntato sui giovani. Ho puntato decisamente sui giovani e ho avuto ragione. Ha puntato sui giovani esattamente come suo padre aveva fatto con lui, affidando a lui, 23enne, l'incarico di direttore generale. La scomparsa prematura del padre in un incidente stradale ha influito molto sulla vita di Filippo Marazzi, che si è trovato a dover gestire una realtà che fino a quel momento conosceva solo superficialmente. Come andare avanti? Si è chiesto l'attuale presidente in quei giorni, 40 anni fa, e la risposta è stata proprio nella strada indicatagli dal padre. Io sono nato nella concezione di mio padre che un'azienda non è soltanto un fatto privato economico, ma è soprattutto, e sottolineo il soprattutto, ha una responsabilità sociale. Mio padre lo diceva 50-60 anni fa, ma non solo, lo praticava. Quando gli operai non avevano nessuna copertura a parte della legge, da parte delle strutture pubbliche in termini di salute, lui fece un centro di poliambulatori. No? E finanziò la ricerca della medicina del lavoro, che allora era proprio agli albori proprio, e quindi ovviamente era deriso da tutti i suoi colleghi imprenditori, ma lui se ne fregava altamente perché non sapeva di essere nel giusto, eccetera. Adesso mi sembra chiaro ed evidente che una società civile considera un'azienda un fatto certamente privato e difeso dalla legge e dalle istituzioni, ma lo considera anche un patrimonio sociale. Quindi un'azienda ha la responsabilità, come mi dicevano quei lavoratori quando andavo in giro negli stabilimenti, ha la responsabilità delle famiglie che vivono sulle scelte dell'imprenditore. Mi sembra che sia comunque sempre valido quello che mi diceva mio padre. Se in azienda la strada intrapresa da Filippo Marazzi è stata da subito quella indicata dall'esperienza del padre, suo predecessore, nella vita privata, in famiglia, è proprio con il padre che entrava più spesso in contrasto, specialmente su un tema, la religione. Era molto religioso e quindi è lì che è nata la mia laicità totale, assoluta, discutendo con mio padre, e devo dire che posso dire in tutta franchezza che mi sento molto preparato sia dal punto di vista teologico sia dal punto di vista della storia e della filosofia, mi sento veramente in grado di, perché l'ho studiato a fondo da quando avevo 20 anni. Insomma, posso affermare che Dio certamente non esiste come viene immaginato dalla Chiesa Cattolica o da qualsiasi altra religione. Lui non mi ha mai imposto di andare a messa o di dire le preghiere alla sera, infatti non sono mai andato a messa, non ho mai detto le preghiere la sera, ma perché lui rispettava la mia indipendenza. Ecco, però mi trovavo a discutere con lui di queste cose e prima mi preparavo. No? Quindi io mi divertivo moltissimo a mettere in difficoltà i preti, per esempio, perché a certe cose non riuscivano a dare una risposta e dicevano mistero della fede, e quindi così è nato questa contrapposizione, che però era anche un gioco, spesso fatto a cena, la sera, intorno a un tavolo con alcuni preti che si divertivano e allora ritornavano, alcuni preti che non si divertivano e non ritornavano, non sono mai più tornati. Filippo Marazzi ha iniziato la sua attività imprenditoriale negli anni 70. Il clima è teso, il conflitto sociale conosce uno dei periodi di massima espressione. L'imprenditore è nel mirino dei lavoratori. Nelle grandi aziende il dialogo con i sindacati è molto difficile. Operai contro padroni, ma è un momento che nell'azienda del modenese si vive, a quanto pare, non molto direttamente. Beh, negli anni 70 erano anni duri, perché fra l'altro c'era stato lo shock petrolifero, la guerra del Kippur, le domeniche in bicicletta, le brigate rosse, una affermazione del concetto che per fortuna è stato superato da parte del sindacato, che il padrone andava impiccato davanti al pennone più alto davanti alla fabbrica. Ecco, questo era il concetto imperante, che però credo che anche per la buona volontà dei sindacati nella nostra regione si è superato abbastanza facilmente, e anche i più estremisti, anche i più inamovibili, insomma si sono seduti intorno a un tavolo e hanno discusso con me e i miei collaboratori che cosa si poteva fare per il bene dei lavoratori e dell'azienda. Io giravo molto in fabbrica, cosa che faccio molto meno in questo, cioè da qualche anno a questa parte. Tutti mi salutavano e tutti mi dicevano una parola, e quindi, anzi, alcuni mi dicevano: ah, ma lei è responsabile di tutte le famiglie che lavorano per lei, eccetera. Il sindacato, devo dire che questa cosa ha fatto presto a capirla, insomma, ecco. E quindi si è dimostrato un avversario molto duro, ma comunque con lo stesso obiettivo che aveva l'azienda, cioè quello di trovare una soluzione a certi problemi. La cosa che non produce assolutamente nessun risultato è questa, è la strategia di muro contro muro. Ci fermiamo per un istante, torniamo subito dopo la pausa.